Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Lo sapete che ci sono aziende italiane che fanno uno shopping incallito all'estero, che invece di essere le solite aziende che vengono comprate dagli stranieri, comprano, sono dei cacciatori invece che delle prede? Sì, ci sono. Sono la minoranza, ma ci sono. Una di queste è la Denora, che è un'azienda elettrochimica, anzi che progetta e costruisce impianti elettrochimici, e che è un mix unico di innovazione di prodotto con nuovi brevetti e continue novità e capacità di utilizzare la leva finanziaria consentita dai margini dell'innovazione per fare acquisizioni. Denora era una piccola azienda italiana, adesso è diventata una media azienda molto internazionalizzata e ha fatto un'internazionalizzazione attraverso acquisizioni. In particolar modo con acquisizione di aziende ad alto valore aggiunto in Estremo Oriente e in Giappone. Ce lo racconta l'amministratore delegato, che è l'ingegner Paolo Della Ca, che oggi è ospite qui da noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi ci collegheremo, anzi ci raggiungerà in studio Paola Maiorana, che è il partner di KPMG con la responsabilità sul capital market, che ci darà un commento su tutte queste acquisizioni che ha fatto Denora. E va detto che Denora è anche arrivata seconda a un premio che fa KPMG, che è il premio per gli M&A. Per seconda nella categoria acquisizioni fatte all'estero. Chiederemo a Maiorana un commento anche su questa cosa, ma concentriamoci su Della Ca. Allora, vedo che voi fate dei margini molto interessanti, ingegnere. Sì. Ma voi che cosa fate esattamente? Cioè, io so che voi avete la leadership nella produzione globale di elettrodi, che sarebbero conduttori generali nella produzione di cloro e soda, che servono a diverse finalità, anche a fare i circuiti stampati. Però nel 1923 il vostro fondatore, la Denora, tra l'altro un'azienda familiare, ha inventato l'ipoclorito di sodio con funzione antibatterica e quindi il mitico brevetto della mucchina. Che fate voi? Allora, noi facciamo tecnologie. L'azienda è nata nel 1923 ed è evoluta diventando leader mondiale nella produzione di elettrodi. Elettrodi che hanno lo scopo di servire una serie di industrie, le più diversificate una dall'altra, una delle quali è quella della produzione di cloro soda caustica, ma ovviamente spaziamo come posizione di leadership su applicazioni industriali dalle più disparate, l'elettronica, ovvero trattamenti superficiali per via elettrochimica dei circuiti stampati che finiscono dentro gli smartphone e i tablet che abbiamo sui nostri tavoli. Ma quindi voi siete fornitori dei produttori di smartphone e tablet? Noi forniamo delle tecnologie chiave, critiche, che entrano tipicamente all'interno dei processi produttivi dei nostri clienti. Quindi siete un second tier rispetto ad Apple e Samsung. Assolutamente. Siamo spesso considerati un po' la Intel Inside dei computer, ovvero il nostro prodotto non si vede, ma si percepisce in termini di performance che poi offriamo al processo produttivo del cliente. Senza un prodotto come questo non potrebbero essere così sottili. Assolutamente. Ecco, e quindi voi quanto investite in ricerca e sviluppo ogni anno? Noi investiamo una percentuale del nostro fatturato importante, in termini assoluti parliamo di una decina di milioni di euro. Abbiamo un'ottantina di ricercatori che si sviluppano in tre centri di ricerca e sviluppo tra Stati Uniti, Italia e Giappone. Comunque, il giro d'affari di Denora, visto che ha fatto anche delle acquisizioni, di cui una recente nel luglio 2015, la britannica Severn Trent Water Purification, è difficile da quantificare. Io posso dire che parliamo di circa 500 milioni con un EBITDA che può andare dal 15 al 20%, però lo dico io perché siccome non sono ancora usciti i dati ufficiali, l'ingegnere non si può pronunciare. Ecco, voi dove producete? Noi abbiamo 13 stabilimenti produttivi in tutti i continenti, Stati Uniti, Brasile, Italia, Germania, India. Italia che cosa producete? In Italia produciamo fondamentalmente ancora elettrodi per determinate applicazioni industriali e produciamo anche tecnologie per il trattamento delle acque, soprattutto tecnologie a generazione di ozono. Anche per la clorazione delle piscine, no? Assolutamente, siamo i leader mondiali nella clorazione delle piscine, che è la tecnologia alternativa alla disinfezione dell'acqua delle piscine con il classico prodotto chimico. E come funziona qui? Fondamentalmente si sfrutta la salinità contenuta nell'acqua per generare un processo elettrolitico che estrae un naturale disinfettante all'interno dell'acqua e quindi la disinfetta, dando delle qualità imparagonabili all'acqua stessa rispetto a un prodotto chimico che chiaramente è molto dannoso anche alla salute umana. E in futuro la vostra ricerca su che cosa è orientata? La ricerca lavora in maniera molto organizzata e selettiva e direi anche manageriale sulla valutazione di quanto serve la miglior combinazione tra la nostra tecnologia e le esigenze di mercato, i famosi megatrend del nostro pianeta. Stiamo lavorando in ambito di energy storage, di elettrowinning del metalli non ferrosi, di vari processi di trattamento delle acque, ovvero di quello che il pianeta necessita in funzione di quelle che sono le primarie esigenze, ovvero la salvaguardia dell'ambiente, dell'acqua soprattutto, il continuo risparmio energetico che è diventato ormai un problema enorme, nella capacità anche di ridurre la famosa carbon footprint della CO2 con soluzioni alternative che non usano più i combustibili fossili, tantomeno quelli nucleari, per generare dell'energia, ma per saperla catturare. Ovvero, da sole e vento, si può ricavare idrogeno, che poi è un combustibile fantastico. E quindi voi vi occupate anche di generazione e produzione di energia? No, noi semplicemente forniamo la tecnologia che è capace di catturare le fonti rinnovabili energetiche quando non servono, quando non entrano nel grid, per trasformarle in un combustibile che è una favolosa fonte di energia, ma che può essere stoccato e utilizzato quando serve. Comunque, io ho iniziato dicendo che ci sono aziende italiane e sono mosche bianche che comprano all'estero. Come mai voi avete fatto tutte queste acquisizioni invece che magari, come tanti altri, farvi comprare? Per tanti motivi. Intanto gli azionisti di De Nora è una famiglia terza generazione che ha continuato a crescere e ha continuato a credere nella capacità di questa azienda di evolvere e di raggiungere anche una massa critica che ci permettesse di operare in ogni paese al mondo. D'altra parte l'azienda è riuscita a coniugare nella sua vita questo mix unico tra grande capacità innovativa e approccio direi pionieristico all'internazionalizzazione, quindi la resa internazionale capace di guardare ogni opportunità già da molti anni. Però quello che vi ha consentito di poter fare queste acquisizioni è il fatto che voi avete i soldi per farli. Assolutamente. I soldi per farli ce li avete perché siete competitivi. E siete competitivi perché fate ricerca e quindi la ricerca vi dà quei margini che poi vi consentono di essere un leader invece che di essere un follower. La leadership, sicuramente la forte leadership che abbiamo costruito in questi anni, ci ha consentito di avere una ottima profittabilità, una grande capacità di trasformare questa profittabilità in generazione di cassa. E sicuramente, oltre a remunerare gli azionisti, la cassa è stata messa a servizio della crescita attraverso acquisizioni. Acquisizioni che sono sempre state molto selettive, strategiche, mai opportunistiche, rivolte a acquisire ulteriori quote di mercato, a migliorare la nostra distribuzione geografica sui vari mercati del pianeta e, non ultimo, ad aggiungere ulteriore tecnologia al nostro portafoglio. Perché comunque sia la capacità di servire i clienti con un'ampia gamma di tecnologie è sicuramente vincente. Benissimo, ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Fabbrica 2.4. E rieccoci in linea, stavamo parlando con Paolo Della Cà, che è amministratore delegato di De Nora. De Nora è un'azienda che fa progetti e impianti elettrochimici e addirittura è coinvolta in alcune parti cruciali della produzione dell'iPad e dei tablet e degli smartphone. È un'azienda che ha un'elevatissima redditività e che compra all'estero. Noi abbiamo esordito parlando di De Nora perché è una specie di mosca bianca che, invece di essere comprata, come purtroppo sta avvenendo per tantissime multinazionali o anche aziende grandissime italiane, invece di essere preda e predatore. Ora, questo è possibile perché ha elevati margini. De Nora ha anche vinto al secondo posto per la categoria acquisizioni all'estero il premio di KPMG sugli M&A. Nel frattempo ci ha raggiunti in trasmissione Paola Maiorana, che è un partner di KPMG con la responsabilità del Capital Market. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché De Nora ha vinto questo premio? Cioè, perché è arrivata seconda in questo premio? Abbiamo voluto, direi, premiare una storia di crescita, una storia caratterizzata da un mix di capacità innovative e di internazionalizzazione. De Nora ha ampiamente dimostrato negli ultimi 10 anni di avere un grande coraggio di cogliere opportunità di crescita all'estero, e questo l'ha fatto grazie soprattutto a un team coordinato da una cabina di regia, direi tutta italiana, composta da manager di eccellenza, specialisti nelle acquisizioni. Certo, senta, ma voi di KPMG avete la fissa degli M&A, fate il premio degli M&A e siete anche i consulenti che nel campo M&A sono quelli che eccellono in Italia. Infatti M&A è quasi un sinonimo di KPMG. Questa cosa vi produce degli utili, perché voi fate i consulenti delle aziende che fanno gli M&A e di lì ricavate cospicue commissioni. Quindi il vostro interesse nel promuovere gli M&A è evidente. Però se guardiamo il sistema economico italiano, la realtà delle aziende, tutto questo insistere sugli M&A è davvero un bene? Beh, certamente sì, riteniamo sia un bene, perché è attraverso la crescita che le aziende acquisiscono competitività. Una volta si diceva che essere piccolo è bello. Questo non è più vero, forse non è mai stato vero, perché le aziende piccole non hanno sufficienti risorse da spendere in ricerca e sviluppo, non hanno la possibilità di investire in innovazione come De Nora ha fatto, non hanno la possibilità di investire in formazione dei propri manager. Quindi l'M&A si pone come un acceleratore della crescita. Attraverso la crescita le aziende diventano competitive. Se lo diventano le aziende piccole, che sono il tessuto industriale italiano, lo diventa il paese Italia. Ecco, ma questo se le aziende comprano come De Nora. Però il problema è che noi comunque come Italia siamo un terreno di caccia. È verissimo, ma anche attraverso la caccia le aziende italiane riescono ad inserirsi in un contesto più grande e quindi a dare un valore aggiunto, crescere se stesse. Sì, però poi gli utili vanno a finire nelle tasche dell'azionista che li ha comprati, i centri direzionali si spostano, il paese viene depauperato. Lei mi fa le facce, come dire, la solita solfa, ma io glielo devo dire. È vero anche questo, ma è pur vero che solo attraverso le acquisizioni queste aziende riescono comunque a sopravvivere, i manager italiani. Certo, perché non avrebbero avuto, come ho detto prima, abbastanza redditività, e se no sarebbero morte, perché oggi per competere devi essere innovativo, lo devi essere sempre di più, perché il mondo globalizzato non ti consente le rendite di posizione. Per essere innovativo devi avere i soldi da mettere nella ricerca e sviluppo e nella tua organizzazione. Se non hai questi soldi ti afflosci e poi muori. Quindi lei mi dice, se queste aziende non fossero state comprate sarebbero morte, esattamente. E invece attraverso l'acquisizione entrano a far parte di un network globale che consente loro di sopravvivere e consente qualche volta anche ai nostri manager italiani di prenderne la guida. Abbiamo eccellenze anche in questo senso. Beh sì, per esempio il caso di Vittorio Colao, che poi è arrivato dalla Vodafone Italia, passando attraverso l'infelicissima esperienza di RCS, alla guida di Vodafone Worldwide. Forse non è il solo caso. Certamente no, abbiamo un Marchionne che oggi guida una Fiat direi globale, abbiamo Ferro che guida la ST Microelectronics. Abbiamo eccellenze in tutto il mondo, direi. Ecco, però vorrei tornare a occuparmi di De Nora. Per capire bene di che azienda si tratta, ascoltate questa scheda. Industrie De Nora è una multinazionale italiana leader nella creazione di prodotti e tecnologie per la crescita sostenibile. risparmio energetico, trattamento delle acque, stoccaggio di energie rinnovabili. È una società familiare nata nel 1923 e nota per il brevetto, poi ceduto, della Mukina. Ancora oggi l'azienda, che ha un giro d'affari intorno ai 500 milioni di euro, è controllata dalla terza generazione della famiglia fondatrice, anche se il timone di comando è stato ceduto a management esterno. Attualmente, secondo fonti non ufficiali, la società starebbe preparando lo sbarco a Piazza Affari. De Nora è il leader mondiale nella fornitura di elettrodi per processi elettrochimici ed è tra i protagonisti nelle tecnologie e processi per il trattamento e la disinfezione delle acque. I prodotti De Nora abilitano processi produttivi e di trasformazione ad alto valore aggiunto per molteplici applicazioni industriali e non: chimica, purificazione delle acque, elettronica, energy storage, infrastrutture. La società è cresciuta per linee interne grazie alla continua innovazione e per linee esterne con importanti acquisizioni negli Stati Uniti, Giappone, Inghilterra e Italia. Per la sua capacità negli M&A si è classificata al secondo posto, categoria italiani che acquisiscono all'estero, del premio M&A, promosso ogni anno da KPMG. È anche uno dei pochi player italiani che comprano all'estero e questo, in un paese che ormai è preda dello shopping straniero in ogni settore, è sicuramente un dato positivo. Attualmente la società detiene 349 famiglie di brevetti con oltre 2.000 estensioni territoriali. Solo nel 2015 sono state depositate 13 domande per l'ottenimento di nuovi brevetti. La forte focalizzazione sull'innovazione ha consentito di sviluppare un patrimonio intellettuale e acquisire un forte know-how dimostrato dal track record rilevante nello sviluppo di nuove tecnologie, tanto da costituire una delle barriere di ingresso più significative nel settore di riferimento. Rieccoci Lina dopo la scheda. Su De Nora va detto che ci sono consistenti rumor su un progetto di quotazione. Ora, io non posso fare domande dirette all'ingegnere della CA che è qui ospite in studio, perché se mi risponde poi qualcuno gli può anche fare causa, ma comunque basta leggere i giornali e si sa che è uno dei candidati più papabili al IPO. Mi auguro anche, quando questo IPO ci sarà, di riaverlo magari in studio e di fare un possibile approfondimento. Poi avete fatto, ingegnere, anche una joint con ThyssenKrupp? Sì, assolutamente. Thyssen è partner di De Nora nella produzione, progettazione e produzione di impianti e addirittura di soluzioni chiavi in mano, di fabbriche chiavi in mano per la produzione di cloro e soda caustica, quindi per servire tutti quei clienti chimici che producono come prodotti di chimica di base la soda caustica e il cloro, che vanno a loro volta all'interno di centinaia e centinaia di diversi processi industriali per produrre prodotti finiti, tra cui il PVC, ovvero la plastica. Ecco, ma la vostra strategia come può essere sintetizzata? Noi vogliamo continuare a crescere, vogliamo mantenere e continuare a sviluppare la nostra strategia nel mondo degli elettrodi, andando ad occupare sempre un più alto numero di nicchie industriali in cui la nostra tecnologia può avere un riscontro positivo. Dall'altra parte, parallelamente, nelle tecnologie per il trattamento delle acque, che hanno un tasso di crescita elevatissimo, vogliamo occupare uno spazio sempre più importante, servendo i clienti in modo sempre più integrato. Poi magari completiamo la questione di Thyssen, sulla quale l'ho interrotta, però la risposta che lei mi ha dato fa sorgere spontanea una domanda: quindi ci saranno in futuro anche altre acquisizioni? Assolutamente, assolutamente. Noi continuiamo a monitorare il mercato, vogliamo mantenere un approccio selettivo e strategico, mai opportunistico, perché siamo un player industriale, però pensiamo che le acquisizioni siano un fantastico acceleratore per andare a perseguire gli obiettivi. Quindi avete dei dossier sui vostri tavoli? Li abbiamo, li avremo, adesso abbiamo chiaramente anche, siamo molto occupati da altri progetti, non ultimo l'integrazione della nuova acquisizione fatta a luglio dell'anno scorso, che è stata un'acquisizione importante fatta da 16 società in tutto il mondo, per cui ci rimetteremo in pista molto presto. Su Thyssen forse bisognava aggiungere ancora qualcosa? Beh, Thyssen è stato un partner di De Nora già dal 2001, però una serie di acquisizioni che noi abbiamo fatto, alcune delle quali erano addirittura in contrasto con la vecchia joint venture, ci hanno portato a fare un progetto ambiziosissimo con la Thyssen, ovvero di ricostituire una nuova joint venture con nuovi connotati, che è stata lanciata il 1° aprile del 2015, e che di fatto ha trasformato questa nuova piattaforma nel più importante player nella costruzione di impianti per il clorosoda. Ecco, lì è proprio un merger, non è un'acquisizione. M&A, c'è anche la parte M. Assolutamente, questa è la parte più M, perché eravamo già soci, ciascuno dei soci ha contribuito delle aziende o dei pezzi di aziende, tutte con un unico scopo, per creare una piattaforma veramente molto più forte di prima. Comunque, quello che conta in queste acquisizioni, e qui mi aspetto una battuta della dottoressa Maiorana, è che dopo l'acquisizione ci sia un post-merger integration che funziona, altrimenti sono soldi buttati e si distrugge valore, come purtroppo è avvenuto in tanti casi. Io ricordo Compaq HP, è stato un fallimento, l'HP ha speso un sacco di soldi per comprare la Compaq e poi la Compaq non c'è più, vero dottoressa? Assolutamente, il fattore critico di successo di un'acquisizione è sicuramente il post-deal, ovvero quello che noi consulenti amiamo definire come i primi 100 giorni dell'acquisizione, in cui i vari stream di integrazione devono partire e completarsi, e guardo soprattutto all'integrazione di business, quindi commerciale, alla finance strategica in un gruppo. Certo, perché ci deve essere una strategia unica, altrimenti diventa solo una questione di taglio costi che poi mai funziona. Io parlerei con voi per delle ore, ma se no poi chiamano la security a portarci via. Dunque, il tempo è tiranno, la saluto, dottoressa, la ringrazio. Grazie a voi. Saluto anche l'ingegner della CA. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, a domani, ore 13:15.